vorrei riavere indietro il tempo che furtivamente mi hai rubato. Vorrei rubarti il futuro tornando al passato. Ho questo desiderio che tutto torni come ieri. Tirare una moneta nel pozzo dei desideri. Le mie intenzioni sono rare, togliendomi il sorriso ne ho altri falsi da indossare. Lo puoi rubare ancora o falsi d'autore. Hai poco da rubare se la vita è già soqquadra e tu ne sei l'autore. Già, la tua amicizia è un furto, ma nelle fregature ho raggiunto l'esperienza di un esperto. Quello che sono oggi, il risultato delle azioni, la somma della fiducia più le illusioni. Appropriarsi in modo illecito di bene altrui è grave, tanto quanto arrendersi nei tempi bui. Per cui non faccio la morale, giro con la moralista. Ecco Masci, sa che faccio, taccio come forma di protesta. Non rubare per avere una risposta. La mia risposta, non rubare da quello che mi resta in testa. Non rubare la dignità delle persone. Se ho ragione, non rubare sarebbe la giusta decisione. Appropriazione illegittima, ma un ladro è vittima. Sommiti ma subiti da un senso che non mitiga. Le liti, il vuoto, un nodo, cazzo modo ci rettifica. L'ubito e piace ampliare. Il tuo peggio se c'è un litiga in quel seggio. Passi fili, c'è un punteggio. Infili grane, fili mani, fili da noleggio. Lo sfreccio e miti che sorreggo. Lo leggo dei visi che proteggono chi si vive easy. I premi presi a quei derisi. Mesi in lisi, mare senza ormeggio. Siamo navi da predare. Un punteggio può cambiare ciò che appare, ma non vale per rubare ciò che è dentro. Scherma il male, non giocare col sionneggio. Non punterò a pareggio fra masso e matteggio. Qua non rubo da punteggio né dal tuo saccheggio. Prendo, perdo e tutto parte di un sorteggio. Non rubare per avere una risposta. La mia risposta, non rubare da quello che mi resta in testa. Non rubare la dignità delle persone. Se ho ragione, non rubare sarebbe la giusta decisione. Non rubare per avere una risposta. La mia risposta, non rubare da quello che mi resta in testa. Non rubare la dignità delle persone. Se ho ragione, non rubare sarebbe la giusta decisione. Io fregarti, non pensarlo neanche per scherzo. Mi riprendo solo ciò che è mio. Come Lupin III, i social network distorcono la verità, paradossalmente rubando il senso della realtà, facendo crederti che tanti amici, zero in città, ti ruba l'illusione, la personalità, furto d'identità, danni collaterali, colletti bianchi che collaborano con criminali, MC che collaborano con presunti tali, amici collaborativi con i pugnali. Il tuo reato è grave, furto aggravato, l'imbuzzo che ti spinge è tale, tu sei malato. Rubi l'anima, la rima e la poltrona. Rubi la scena, lo scettro e anche la corona. Rubi sul popolo e sul prezzo della benzina. Se non ricordi, rubi anche il nome di una tua squadrina. Non rubare per avere una risposta. La mia risposta, non rubare da quello che mi resta in testa. Non rubare la dignità delle persone. Se ho ragione, non rubare sarebbe la giusta decisione. Non rubare per avere una risposta. La mia risposta, non rubare da quello che mi resta in testa. Non rubare la dignità delle persone. Se ho ragione, non rubare sarebbe la giusta decisione.